Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik. va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Maddalena in cave di I love you. Turn it up, stop DJ, turn it up. more kisses back from you. Give me the heaven.